certo consiglio ci dice, ma gusto, mal di gola, la febbre, eccetera. Dolori soprattutto alle costole. Quale colpo d'aria che è pigliato su un'altra, lavoro. Finestrino della macchina, qualche cosa sarà. Però mi è venuto. E adesso sto meglio, non devo rientrare al lavoro e voglio rientrare tranquillo, dai. Mi sia passato tutto, se no poi mi ricomincia tutto da capo. Quello c'è il freddo? No, io ho fatto il freddo. A casa non c'ho né caldo né freddo, si sta benissimo. Cioè, posso mangiare tranquillo, non sudi, c'è caldo. E da trovare a casa c'è pure le finestre. Cosa c'hai? Il condizionatore? Non ho bisogno di condizionatore io qua. Sono a pianta vera, c'è fresco, si sta bene. Non è umido, tu c'è fresco. Vabbè, una zona all'ombra quella lì, chissà se arrivi che così non batte il sole, manco di tamma. Sì, lo so, ma deve entrare a casa, non c'è vento di scirocco qua, sembra di essere la tua faccia. Ma l'umidità ti mangia in chivi, l'umidità, come non entra il sole a scaldare, lascia tutto umido e la muffa incombe da tutte le parti. No, questo è perfetto, non devo muffare per quello. Sì, non sarà a te, però in molti appartamenti se sarei vecchio. Ho visto muffa che non riusciva manco con la varecchina. Non ho provato a lavarla con la varecchina, poi riusciva fuori. E la muffa io lo sai che rimane sempre, ti poteva seguire. No, a questo amico mio gli avevano consigliato di mettere la varecchina pura, però è andata apposta a comprarla vicino a Cagliari, alla masnata, l'ha comprata pura senza diluire, e l'ha passata pura, addirittura ribolliva il muro come gli passava la varecchina. Una volta pulito con quello, l'ha sfregato e gli ha passato la pittura per la muffa, no? È durata un paio di anni e poi di nuovo è riuscita a fuori. No, io quando li uso parecchina, non mi ho buttato così tanto. Va bene, poi se vuoi, ho fatto il controllo di polistirolo e ho finito di avere verità. Basta attaccare il polistirolo, adesso è duro, quindi passi la lettina, quindi va bene. Spingi e non c'è nessun tipo di umidità. È meglio così, Ale. Adesso tutti così, no? Ma lui ha rovinato anche i mobili, la muffa, figurati. Vale. Però qui e io? Vedete, fanno così. Ti fanno per terra. Va messo un caporotto, hanno attaccato i blocchetti, metti il polistirolo. Poi passi lì, la ritira l'intro poi, è a posto, e puoi tingere dopo due giorni. Ah, vaga, ma aspetta che stanno chiamando, per favore, va. E da poi di poche bocca è tu. Anzi, prima di lavarmi, penso sempre che vuoi di la faccia giù. C'ha le incrostazioni addosso, quando passa lascia la scia. Infatti se parla dietro non parla la base. Se non è dietro la base. Ma te che già lo so dove c'è la cartoleria, vado a trovarlo lì, capito? Problemi non ne ho. Possiamo capirla che non è giusto di testa, è cabomato. Cosa li vuoi fare? E per fare? Dopo fare. Cavaghiera. Andare. Se ti ricordi fammi quel CD. Sei un preoccupato, sei un mai gettonato questo periodo. Ma vabbè, se c'è un po' di cosa da fare, per fare. E al limite, vi stasera, se volete passare, io sino alle 5 sono libero. Sono a casa da solo, là. Se volete passare, passa, non c'è problema. Travagliato un meno, c'è il caldo pure. Travagliato un meno. Travagliato. Non è stato una cosa. Lo so che quando avevo il 40 io c'avevo il motore dentro, non ti dico altro. Una volta sono attaccati all'intera estate, in agosto, ma c'era da bollire dentro. Ma i finestrini non aprono perché? Da bisogno di attaccarli, il tuo figlio si è proprio incastrato. Era freddo in quell'ultimo lì e poi rimane così. Hai fatto proprio apposta, pare che ti lo possa ripetere. E tu sai cosa fai? Rifai la domanda scritta, che poi il nuovo della Piaggio con la quattro ruote, la Roma Comiso va tutto, va riacondizionata, va tutto grande. No, ma aspetta, adesso frasi, no, c'è una lacuna d'altra che proprio e poi devi appenare e se non entra aria cavagava. Alessio, avanti, dimmi. Dimmi, c'è Pierpaolo, lo saluto. E mi senti, ciao Pierpaolo. Ciao. Quando decidi la provi e vedi se sei più forte di questo o no. Beh, come andava? Portati da Riva Valghero con un latte e mezzo, immaginati tu. E prima c'era meno inquinamento atmosferico, naturalmente si riuscivano molti più cose, ti parlo di prima a prima, però vedi, 35 anni fa ti parlo. Ci avevo il portatile della Lafayette tre canali, parlavo con l'Anghero tranquillamente. Ma io guarda, ho fatto un discorso adesso per cercare di parlare con l'Anghero e non è possibile. Io con l'Anghero ci parlavo sia che quando avevo la Bumera, io che avevo la Bumera, e sia quando avevo la Mini Grand Prix e la Grand Prix ci parlavo con l'Anghero. Adesso non ci riesce. Ma magari trasmetteva anche da diversa zona, ma bisogna vedere quello anche. Magari veniva meglio a copiarti. Anche quello che non c'avevi ostruzioni prima, era tutto libero. E anche io da casa di mamma, me lo ricordo, a Sacro Cuore con l'Alghero parlavo tranquillamente col portatile. Canada, e ho fatto il collegamento, Francia, e ho fatto il collegamento, Spagna, ho fatto il collegamento, c'erano dei tedeschi, però non sapevo parlare il tedesco, quindi non ne ho fatto. E gli ho detto Kartoffeln, Telefunken, Volkswagen, le solite parole che sono in tedesco. Volkswagen. Ma sono tutte tedesche, non come parole. Sono le uniche che so. Non ne so cosa mi dite tedesco. E una volta mi hanno detto Maccheroni. Io gli ho detto delle fughe Volkswagen e Kartoffeln. E lui mi ha detto Italian Maccheroni. Ci sono fissi. Carroni. Oh, Antonioni. Ma che è? Ma tu mi dici dove abita quell'amico, quello che rompe sempre le scatole, lui vado a mettere il fuoco alla casa. Thank you. questo americano. Già non potete seguire la musica, la boia è di figurati. Ma già è comodo dove ti segna il numero che ti chiama, così almeno se non vuoi rispondere davvero non rispondo. Non me lo segna Gappo. No, perché ho cambiato gestore, quindi non mi dite niente. Mi ha telefonato questa qua della... come si chiama? La più scaccina che c'è, come Tele 2. Lo so, ma questa qua è scaccina brutta. Infatti mia moglie sta sempre bestemmiando perché l'ho cambiata. Ehi, ma con Telecom, ma che va un bel. Con questa qua ci abbiamo le telefonate gratis urbane, un sacco di roba. Paghiamo poco di internet, solo che il letto di Lugosi sul computer. Me l'hanno detto, ce l'ha anche il cugino di mia moglie, ce l'ha Tiscali, ha detto che si trova bene, addirittura c'è la linea attaccata al modem del del computer e telefona gratis. Te lo fanno direttamente da là. E non sai cosa c'è, che infatti uno pensa che abbia il culo più aggiornato, poi magari trovano la magagna, trovano il modo per entrare lo stesso con il virus. Praticamente lo elimina da solo, vista il virus, cioè senza metterlo in cosa, come si chiama, e vabbè già mi hai capito, si mette da una parte, adesso non mi viene la parola, vabbè, in quarantena. Sta entrando nel mio programma senza autorizzazione. quella sarebbe l'unica, visto considerato che no, molta gente non te lo fa mandarti via se non te lo fa con proposito, magari ti manda una lettera. Una lettera che hanno mandato anche a lui e c'era il virus e cosa, e lo manda anche a te volontariamente. Proprio chi è stato a mandare il mandato. Eccolo, lo fa anche con me. Che mandare la polizia postale, in base a quel numero loro capiscono da dove viene, ma a volte li mandano anche da fuori, dall'America, dall'Inghilterra, capito? Li mandano anche da fuori. Tutto vedrai, anzi è per loro è ancora meglio, perché devono sforzarsi di più per capire come fare, se si intrippano, capito? Se si intrippano di più, ma diciamo che non è a tutti che piace molto, perlomeno Natalino mi dice che è difficile come programma, che ti dà un di blocchi, di cose, di tanto si sblocca, ma tutto magari sarà saper usare. Sarà da anche migliore di quello dopo, in concorrenza in tutte le maniere. Vabbè, noi siamo rimasti arretrati, non ci abbiamo visto, ci abbiamo l'altro Windows, Windows XP ci abbiamo, che era il più aggiornato che c'era ultimamente. Professional, ma a me va bene, la verità, ogni tanto entro cose, ma non mi dà problemi, mi va molto bene come programma, non ha niente di da cui, l'unica cosa che c'è che entra un virus, il virus entra lo stesso. Ciao. ma anche XP va bene, io sono XP professional, va bene, va bene. Allora l'unico antivirus, il migliore che c'è in assoluto è il Panda, ti costa 30 euro l'anno, però cacchio, ti copre tranquillamente. E di meglio ti copre proprio di meglio. In caso di tanto studio stiamo operati per me la parte interna, proprio un banda, quindi ne sai un mezzo. Io non so da chi ne sa, Natalino, non ero su io, non so da chi ne sa, ma tu su cui sei neanche su cui io. Chi mi ha detto vuol dire lo sa, punto. Vabbè, la capigliva, non lo voglio arrabbiare, chi si dice di cazzate su cazzate, io sono comune a questa no. De Burano in Altaria, chi è entrato da Vallu? Beh, ci ha parlato di quelle persone, ma raga, ma vedi che è meglio. Vabbè, dai, un attimo, io sto facendo una cosa qua. Vabbè, si è bisogno domani. Avanti per Luca. Sì, sì. Già ci sono. Capisce. Allora, dove eravamo rimasti? Stavamo parlando di cazzate, non me lo ricordo quale cazzata ho detto, l'ultima che ho detto. Andate. Dove eravamo rimasti? Stavamo parlando di XP. E dei cosi degli antivirus, e Luca stava dicendo che il Panda secondo lui è uno dei migliori. Io col Panda ti posso dire che l'ho avuto, aveva molti contratti con dei programmi, era un antivirus, però era troppo forte come antivirus, troppo potente. Beh, io lo so. Non so, è così, non so, abbiamo un'idea, c'è la VG, c'è l'altro, non so chi sia più buono, io non lo intendo, io proprio dal computer sono fuori, perciò qualcosa non la so fare, ma poca roba, proprio necessario per entrare su internet e vedere qualcosa così. E basta, poi se ne parliamo di cosa, me l'hanno riferito, non lo stai dicendo io, perché io so che il Panda è uno dei migliori come antivirus, non lo so, molto grosso come programma, sì, già l'ho sentito anch'io, e fa quella cosa, non l'ha detto a me, cioè lui castelmente questa cosa non lo so. Allora lui ha questo antivirus Panda, il computer che usa lui lì in ufficio, dice guarda, meno male che ho questo coso, questo antivirus, altrimenti questo computer ci hanno ributtato l'accesso. Ma sai un antivirus già, tutti bloccati da quel antivirus lì. Se no questa la diceva il computer ci aveva già lo so già Luca. Ce l'abbiamo anche noi in negozio quel Panda. Ma va in contrasto con alcune cose, va. Ma poi ognuno dipende, se gli va bene dice che è buono, se non gli va bene dice che non gli va bene, è come quando uno va dal dottore, no? Se ti cura bene dici che è bravo, se invece non azzecca la cura dici che il dottore non serve a niente, è la stessa cosa lì. È così, quel Panda non è per tutti i computer che va bene, perché è un programma molto molto grosso, però diciamo che c'è una bella difesa, a quanto ne so io. Sì, come programma, come antivirus è grosso, ma è proprio per questo che è in contrasto con altri programmi, capito? E quindi non va bene per quello, ma diciamo che ci vuole un antivirus buono, ma che nello stesso tempo vada in conflitto con programmi che ci sono all'interno del computer. Scappagatta, sì, è così, noi ce l'abbiamo il negozio, ha rallentato un bel po' il computer, ha rallentato, perché purtroppo il programma è così, è grosso, e abbiamo dovuto aumentare, chiamare il tecnico, aumentare il RAM e tutto quanto. Normale, e se lo vuoi che vada un po' più veloce, quella è la ragione. Ma non è tanto veloce, c'è quel panda, c'è. Però diciamo che è un'ottima protezione, però è molto grosso. Sì, è veramente compiuto, dà un bel problema. È così, E Paolo? E come mai? Gabbo gabbo. E dove li hai fatti questi così? A me mi interesserebbe farli. Io già l'ho fatto il corso, ma l'ho fatto a casa mia. Mia moglie già ce l'ha. Mia moglie è programmatrice. Al corso di programmatici in computer ha fatto anche l'esperienza in ufficio, cose, ma cose tutte diverse. Adesso si fa tutto lì, si fa i biglietti di una visita, si fa tutto quanto lì. L'ha fatto di 3 anni, che non l'ha fatto di un mese. Ha pagato 1.500, no, 1.500.000 all'anno. Ma non in via Umberto, lì dove c'era la Telecom prima, là. Dove, come spiegato, dove c'era la Far Romeo, lì dove c'era lì su quello che vendeva la Far Romeo, Silanus, il caseggiato di Silanus, lì dove lì ha fatto il corso. E poi quando se n'è andata i professori gli hanno regalato anche i libri, perché gli ha detto che era bravissima, se voleva restare, che facevano di tutto per farla restare e a fare insegnare. E sia lì che nel corso di datilografia, quella macchina elettronica da scrivere è andata a imparare, non so se faceva 1.000 battute al minuto, una cosa del genere. È sempre dell'istituto Europa quello lì, mi pare, però anni addietro, ultimamente li stavano facendo lì, stavano facendo dove ti ho detto io, e comunque l'ha fatto per parecchio tempo lì, e si è trovata bene, perché quando è andata a lavorare sapeva già usare la macchina, capito? Diciamo che a programmare non ha mai programmato nulla, però se si mette riesce a farlo, perché ha fatto i corsi. Schede per qua, bisogna anche intendere se è quello, sì, ma è tutto a schede, adesso già si fa in fretta, si trovano 2 coperti laterali e c'è tutto quanto, ventola, scheda male, tutto da tinchibile. Ma io non mi ci sono mai messo per farlo, io non le so fare, non mi sono mai messo a farlo, ecco. Ma non è che adesso sia molto difficile farlo, là. Quello lì no, quello lì la verità. Ho visto farlo dal tecnico, ha tolto un pezzo, ha messo l'altro, ha attaccato due spinotti che c'erano nell'altro pezzo e ha fatto il gioco. No, bisogna intendersene per qua, perché io non so che cosa serve quel pezzo, non so che cosa serve l'altro. La ventola so cosa serve, che serve per raffreddare, quello sì, ma i pezzi non li conosco. Se tu sai quali sono i pezzi, glieli puoi mettere, diciamo, maggiorati, ecco. Come nella Vespa, quando si cambiavano i pezzi del motore, la stessa cosa. Scaricarti le canzoni, poi farti CD, i film, tutte queste cose qua. Ma sto dicendo che non ti ho visto, non mi interessa scaricare i film, ma tu lasci una mai tu. Se non lo chiedo, va bene, tanto quanto. Ma per me, lascia perdere. Che scrivi maiuscolo perché in minuscolo. Ti hanno aperto due volte, la seconda volta l'ho fatto buttare fuori. No, no, è vero quello che sta dicendo Luca, è successo anche a me. Scrivere in minuscolo perché significa che sia di lato quando scrivi con una maiuscola. E non è nemmeno difficile bisticciare per qua, perché lì si fraintende, non vedo roba. Si fraintende, io in una chat stavo facendo un ciaramento. Io parlavo con questa ragazza e questo qui mi diceva di non darmi retta, che stavo cercando di rimorchiarmela, che questo e quell'altro, alla fine non glielo so. Mi è entrato e ne ha giocato tutti i gatti che si sapevano in chiaro, proprio, non in privato, in chiaro davanti a tutti, ho cantato proprio la sassarisa, mi ha giocato canto un disabito. Dipende che trovi per qua. Cosa adesso, magari adesso entri, per dire ho un nick strano io, no? E magari mi dici, fai la risatina, è un nick strano, per dire. Oppure magari tra un nick strano, io a te magari non so, ma così scherzosamente. E c'è sempre quello che ti attacca. Addirittura io mi sticciano con questo, ne è entrato un altro, ma mi ricordo, magari c'è quello di ragazzini di 20 anni, diciamo, per anni, diciamo, non di più, forse anche di meno. E mi ha scritto vattene, a me. Infatti io non ho neanche risposto. Ma sicuramente era a me, no? Cioè eravamo in buchi. Ti può capitare magari che tu vuoi questa ragazza qua che è occupata, tu non lo sai, e da lì nasce il bisticcio. Mi sta bisticciando, sta chattando con me, perché si è intromesso tu. Allora è capitato pure una ragazza di 15 anni. Sta cercando qualcuno per chattare, ma non ci sono problemi, ci posso chattare io, ma non posso appunto chattare, ma stavo chattando con me, da cui ci sto pescando le parole. A imparare a scrivere, insomma, a impostarmi le dita nella tastiera. Dopo un po' mi ha detto nel 2033 che lì la studiava, non so che cosa, bomba, e poi niente. Sto qua, non è che sia subita da dirgli come sei fatta, come sei alta, e un po' tipo. Tipo Marciano, allora ricordati nel virtuale, uno dice dice la sua, ma io vado di Zane e ti dice che ne ha 30, tu lo sai. Gerpa, detto che tu non ci prendi gusto nella chat, io ti dico che ho avuto esperienza di 4-5 anni che chattavo, e avevo una chat insieme a un'amica che si chiamava Sassari Online, e c'era un bel di gente che anche chiamava da fuori, entravano da fuori da Milano, ho conosciuto ragazze milanesi, ho conosciuto ragazze di Torino, ho conosciuto ragazze di Bologna, di Roma, insomma noi abbiamo fatto le pizzate, quando facevamo le pizzate qua a Sassari venivano da tutta l'Italia, tu immaginati che bella roba, tavolate enormi, al Milano 26 abbiamo riempito tutta la sala. Poi siamo andati in vari posti, siamo andati anche a Sosso a farne una, alla Fiorentina, abbiamo fatto una lì, e c'era Cagliari, Sassari, Milano, c'erano persone di Bologna, ti divertivi, facevi le pizzate, ti conoscevi, e con tutto siamo rimasti molto molto amici con tre di queste persone, che anche se non chattiamo più, io non chatto più con loro, però d'estate vengono qua a trovarci, andiamo noi, cioè siamo rimasti un bel amici, capito? Gente in gamba. Io parlo, ho chattato sulle chat di MSN, poi GDP chat, erano quelle che mi piacevano di più, poi ho chattato altre parti ma non mi piacevano, lì erano le uniche che mi piacevano e ti dico che ho trovato svariati amici, si parlava di pesca, si parlava di tutto un po'. Tant'è vero che quando li facevo dei pesci che pescavo, gli amici di Milano mi dicevano quando vengo giù Gianni mi devi portare, io la passione nel lago, però anche al mare mi piacerebbe imparare, questo e quell'altro, ah, non c'è problema. Ma sono venuti, ce l'ho preso anche la casa qua. E ti dirò che ce n'è stato uno di Milano che ha preso tre villette di quella schiera a Olbia, a Casamare, lì dietro la città mercato, ha preso tre villette a schiera lì e diciamo che ci penso io a queste ville, quando io voglio ci vado, ho la casa per me senza pagare una lira, però quando per dire c'è gente che ne vuole, gli apro la casa, tutto quanto, gliela faccio vedere, ritiro l'affitto e mi interesso io di tutto, capito? K. Vedi. Non è detto che ci siano sempre persone cattive in chat, ci sono anche persone come si deve. Questo qui è un imprenditore, c'ha una pasticceria a Milano industriale enorme, e con questo socio hanno deciso di investire così, se ne hanno preso tre se ne devono prendere anche altre, quindi io problemi non ne ho perché c'è mio cognato a Olbia, quindi ci pensa lui tramite noi, è tutto un giro là. E riusciamo a fare tante cose, per dire a Pasquetta io ho la casa lì, a Pasquetta ho la casa lì, senza pagare una lira, a Natale, solo il mese di agosto, si è impegnato da lui, poi il resto posso gestirmelo come voglio. Luca. Quindi è bello. Vabbè. Come detto, tu trovi gente in gamba, gente, ma io ripeto, gente così. Così a passare il tempo, là, giusto per fare le chiacchiere. E soprattutto imparare a con la tastiera, sia un pochettino più veloce. Che entro chissà cosa, molte volte capita che non c'è nessuno con te, allora lo faccio io, sto così per ammazzare il tempo, metto il micro da donna tipo non a caso, e lì niente, viene in giro ma a tutte le ruote, per prima cosa ti chiedono se c'hai messaggio. No, io già ne ho già fatto di tattiche, quella da donna l'ho fatto fare una volta e basta, ma ho già fatto di tattiche, dicevo di essere un modello, eccetera, cioè le donne ha preso a nastro. Comunque, amiche di Milano, un'amica di Milano per dire è venuta 14 giorni qua a casa mia, ospite, noi siamo andati a Roma, ospiti di altri, cioè, gente che ci ha tavolati, non è che l'ho conosciuta due giorni. Caia, vabbè, comunque già, secondo dove sei, io metto su e chat, lì, cioè, ci sono, arriva anche a 300 utenti, 250, 300, è talmente veloce molte volte che è un casino, e poi c'è il privato, tu vai a cliccare su un nick due volte, tu bussi la porta, facciati tu e lì e tu. E vabbè, guarda che ti diverti, già ti diverti, va bene, lui è. Sono attaccato troppo, cazzo ti ammazza, mamma mia, stai sempre fumando già. c'era la cameretta che era un fumaiolo. Un fumaiolo. Fumava un bel in cameretta. Ma io qui avevo un'amica particolare. Si confidava con me tutto quanto, era come se fosse un'amica a fianco a me, capito? Mi attirava, nel senso che la conoscevo, ci vedevamo in cam, cioè come era vestita si presentava, non è che si era struccata per dire non si faceva vedere, si faceva vedere lo stesso. E io vedevo, la vedevo giorno e notte, capito? Perché si faceva trovare a tutte le ore, se aveva qualche problema me lo diceva, l'aiutavo, lei aiutava me, cioè era un'amica proprio particolare. Mi mandava i messaggi della notte, buonanotte, eccetera, eccetera. Ma sono cose che ti fanno piacere, no? Senza avere nessun secondo fini, ma tant'è vero che è venuta anche a casa a trovarmi. Poi ne avevo una siciliana, nel senso che era un'amica particolare. Però con quella lì un po' ci siamo persi, perché io avevo un marito che era malato, aveva la sclerosi multipla, desiderava molto un figlio, io gli avevo consigliato di prendere un'adozione, visto che ci sono tanti bambini che hanno bisogno dell'affetto dei genitori, non ce l'hanno. Mi aveva fatto questa domanda di adozione, però poi c'era malato ancora di più il marito e la macelleria che aveva non l'hanno dovuta vendere, non so che cosa, quindi hanno accantonato tutto, capito? E non si è fatta più sentire, manca il computer, mi telefonava anche a casa, tutto quanto, cioè non, il marito lo sapeva, mia moglie sapeva dell'amicizia nostra, non c'era nessun problema. No, beh, quello si comportava bene, va bene. Va bene, già lo so. Se te ne capitano comunque persone in gamba, vista. Infatti io spesso, molte volte capita, entro in quella chat, ma senza, insomma, due chiacchiere così, di più almeno. Basta, senza secondi fini, come detto tu. No, inizi che ti pietà di essere non c'hai, è così fatta, ti vuoi far vedere, insomma. Però non fai niente, io non sono lì che la donna, la femmina, una cosa, come si dice, che siamo messenger, quella è la prima cosa. E poi tutti i cosi cristiani. Vennai in maniaca, ma per dire in una chat di Sicilia mi hanno chiamato in privato questa ragazza e mi ha detto stai attento a quel tipo che è un mafioso, non lo dire mai in chiaro una cosa del genere che te l'ho detta io, però stai attento che è un mafioso, non dare retta a lui, eccetera eccetera. Dopo 5 minuti mi chiama un'altra tipa con cui chattavo sempre e mi ha detto Gianni, quello che è entrato è un mafioso, stai attento. Queste cose qua, magari dal computer riescono a aggiustarsi qualche cosa, non lo so come sarà, però anche loro hanno i tecnici, quelli che se ne intendono, eccetera, eccetera, che sanno come fare. Ehi, ma tu questa gente qua nel paese loro sono delle uomini, fuori da lì non lo so. Infatti, non lo so come sarà, però mi hanno avvisato, là. E già lì ho intuito l'amicizia delle persone, perché se mi hanno avvisato vuol dire che ci tengono a me. Sì, però c'è la finita, niente, ma comunque, non è che possa fare più distanza, guarda. Vabbè. Per dire, io c'eravo con una ragazza, ho messo la lancetta del coso sul suo nick e mi è apparso suo nome e cognome. E ho detto, tu ti chiami così, così e così, ma tu come hai fatto a saperlo? L'ho scoperto così, per caso. Hai fregata. Ma tu non sapevo che si faceva così, l'ho scoperto per caso, ti dico la verità. Ho scoperto nome e cognome, capito? lei entrava come orchidea selvaggia e il nome c'era Paola eccetera eccetera, il cognome me lo ricordo tuttora, però non l'ho mai detto, l'ho detto a lei, ho detto tu ti chiami così e così, e ne mai detto, sì, ma tu come fai a saperlo? Sono indovino, questo caso è un miracolo, come fate a saperlo? Dai, dimmi, ti prego, poi gliel'ho detto, come fare, metto? Lo sai che so anche io come ti chiami tu? Ah, ti ha fregato, ti ha. molte volte uno non lo sa e lo fa, cioè, non lo fa neanche per male, non lo fa, lo cerca, lo sai, glielo dice. Però molti credono che chissà cosa hai fatto, mentre ti è stato, bombato, chissà cosa si immagina. È fatto bene a dirglielo subito, dai. Tanto perché avevo messo il nome falso, capito? Sono stato più furbo, invece gli ha messo quello vero. Io non ho mai messo il mio nome e cognome vero nel computer, quindi non puoi mai saperlo. E cappagato, noi è meglio così, anche per sicurezza, si sa mai. Gli unici che lo sanno sono i gestori della compagnia, non sa nessun altro. E infatti. Ma io adesso da quando hanno tolto le chat di MSN e quelle di GDP chat dove chattavo io, non ci sono più entrato in chat. Un giorno ho messo chat nel motore di ricerca, ho controllato, ho guardato un paio, una non mi piaceva, l'altra non valia, l'altra non mi scriveva, insomma, le tutte scartate. Guarda, c'è quella dei chat già, ti diverti, oppure vabbè Messenger. E Messenger è poco mi piace, ma non sei sincero. Quando inizierai a essere in 3, 4, 5 persone, un casino. Tu dove ti sei iscritto? Ti sei iscritto a questa chat? Certo, no. Non c'è bisogno di iscriverti. Su Messenger sì, sono iscritto. Su questa chat vai e chat. La prima voce che ti appare, clicchi lì, una volta ti apre la pagina, poi c'è scritto chat, clicchi lì, ti apre la cosa e ti cioè, inserisci il nick, metti il nick, entri, senza registrazione niente, si chiama chat senza registrazione. E chat è tutto attaccato? Sì. Non spero di andare, boh. Comunque io mi chiamo Gabriel 59, mi registro così. Io mi prendo il cane fisio, mi sono messo. Ieri ci avevo. Ieri mattina sono entrato, mi sono stato preso, poi vado là. Lavoro. A proposito del lavoro, grevo. La giornaliera. Io che ho fatto. E niente, sono entrato, oggi quant'è? 18, 20 ore. Come Miguel. No, io sono sempre lo stesso. Uso lo stesso anche perché per dire, le persone che mi conoscono mi chiamano, quando mi trovano mi chiamano, quindi uso sempre quello lì uguale. Ce ne sono un bel di Gabriele. Tutti quanti all'inizio dicevano chi Gabriele Darco, magari dicevano loro, no? E io non è che sia modesto, ma sono migliore di lui, faccio il modello, eccetera, eccetera. Anche tu sai come si attaccava. Che azzurri, capelli biondi, fisico asciutto, così mi descrivevo. Assolutamente, mi assenti lì in chiata delle balle. Poi se uno lo vuole fare così, per scherzo, cioè così, per divertirsi va bene. Che lì quello visto. E se uno si ritiene bello, capita nelle chat che tu buono, che dato bellissimo. Cazzo così, entri in chat a caffè me. Amor, no, no, no, no, no, no, no, no. parte che uno va anche per misurare la relazione interpersonale, conoscere persone, non va per buscare donne, perché io perlomeno, io vado anche per scoprire come la pensa la gente, dicevo una cosa per dire contraria a quella che pensavo, per sapere cosa mi dicevano loro, se mi davano ragione o se mi capivo. A volte dicevo di essere, una volta mi è capitato che ho fatto la donna, lo stesso, e questo qui ha cominciato a fare il maiale, e ne ho detto tutti colori. Ma maiale però, mi ha fatto vedere una fotografia, c'era, non una fotografia, c'era lui in cam, col gatto che c'era il coso fuori e stava leccando. Bene, parli a Domaro, per dire. Cioè c'è gente un bel maiale, non è, uno entra anche per farsi le amicizie, per scambiare dei pareri, siccome qua siamo racchiusi in un'isola e le idee più o meno sono quasi sempre uguali, perché la mentalità è quella, a me mi piace anche allargare la mia mentalità, il mio modo di pensare, parlare con i continentali che hanno una mentalità più aperta. Tante cose sono belle per quello, non perché vai a cercare donne, io chatto anche con i maschi, non sono con le donne. Dipende, dipende, parli con tutti, capito? Parli con tutti, poi vediamo che ti trovi sempre, c'è quella che proprio non ti fila, proprio non ti cara neanche, è capitato. Così capita, tu vai a entrare alla pagina principale dove ci sono tutti quelli che chattano lì e poi inizia a bussare, no? Tu, ciao, brutta, quando vado a vedere la mossa, allora vuol dire che mi sta rispondendo, ciao, e mi stiamo sul tavolo da 9. E più di una mi è capitata che ci faccio una ragazzina già, 33 anni sardo, questo è sparita. Già ti insegno io come fare per se vuoi conoscere persone, ragazze specialmente, come fare. Io avevo una tattica che funzionava, a me conoscevo, qui così parlavo tranquillamente, non è che non mi la fottia nulla, però basta dire tutto quello che vorrebbe una donna e loro vedrà che rimangono incantate e ti vogliono conoscere più a fondo. Basta dire, non ho capito, basta dire, e così vorrebbe una donna. Per dire, un uomo che la ami, un uomo che la coccoli, che si comporti bene con lei, che l'aiuti in casa, basta fare sempre la persona che fa tutto, capito? Allora loro cominciano a dire, ah, sei veramente una persona in gamba, se ne trovano pochi come te, questo e quell'altro. Questa ragazzina che pure l'aveva detto dopo che aveva 15 anni, mi aveva detto che non era fidanzata, poi ha detto così, già, tanto non andava a lavorare, così e qua, ma continua, ha detto che si studiava, tutte queste cose qua. Quindi praticamente stava cercando uno che praticamente era, come si dice, più di morale, era una persona dolce, tutte queste cose qua. Devi fare una persona dolce. Qua una delle tattiche che usavo io, mi scrivevo così, ciao, virgola, posso avere l'onore di chattare con te? E loro mi rispondevano, ma certamente, un uomo così gentile non gli si può rifiutare. Ragazzi, la donna, ragazzi che bussavano. ciao. Dimmi. Ma siccome era una buona, sì. Quanti anni hai? 53. Eppure mi chiamo Italia, no? Sai come. Ma poi ho uscito, scusa, ma tu sei bisex per caso? Sì, io sono sposata, comunque mi piacciono sia gli uomini che le donne. E niente, apriamo di Balogur. Si vi sente sovramodulate, una alla volta. Sovramodulate. Una alla volta. Avalava. Ecco, Bombolino, Bombolini, quei monti di Sassari, cappa, cappa e cappa. Cosa c'è, cosa c'è? Salvatorica. Tutto bene, dentro casa ti fa male, esci fuori, esci fuori, che siamo 38 gradi, cambio. Attenzione, parla agricola. Ci sei? Ci sono. Io conosci qualche bella bambina, io. Mi conosco di fanciulle. Papà, presentamene qualcuna. Viene fregato, c'è una. La cinesina. Attenzione, paravicola. Sì, signore, sì. Chi era quello che gli stava dicendo che ha fregato la cinesia? Non perdere mai, non è vero! questa gente che si fa gli affari sui, perché non va bene? Anche se fosse vero. Intanto se non è che a Barranico vuol dire che non è vero, o che non lo vuole riconoscere. Eppure se è forte, va bene lo stesso. Vabbè. Vero Barragli? Sì, già è vero già. Ma cos'è vero, cos'è vero? Se quando ti trovano i fratelli di quella cinesina che l'hai messa incinta, dice, se ti fanno un buon uovo. Sì, ma i soldi per camparla li lascio già. Vittorio, c'era musica, c'era. Via. E vabbè, ma tu ti ricuvivato con una battona, tu. Vado, la battona. Incinta l'ha messa incinta la cinesina, la stanno cercando i fratelli della cinesina. La bella edicola, hanno detto, me lo trovano, lo fanno nuovo. Hanno voluto prestare la motosega e gliel'ho dovuta dare io dal cofano, dalla macchina. Attenta, la bambina è una birichina, compio. Sì, attenta, il maschione gelosone, cambio. Ascolta, se ti comporti così, tu hai finito di parlare qua, te lo dico io a te. Capito? Petrolio. e poi non lo so come lo lavorano, ma dovrebbe essere così perché le parole dicono quello. La miscela. Non lo so esattamente, Luca, non vorrei dirti una cosa per un'altra. Non sono competente in quel ramo. Ma lo conosci Antonio Miscella? No, non ne conosco di miscele. La miscela prima te la faceva al rifornitore, ma te la devi fare tu, se ti la fai male guai. Quindi io ci vengo in giro, c'ho miscela, miscela, c'ho miscela. E io adesso il motorino sono a quattro tempi, basta comprare quei quattro tempi che non ho bisogno di miscela e via. Mio nipote ce l'ha a quattro tempi il motorino. E adesso che stanno facendo poche cose, tutto quanto una rivoluzione, di tutto è però, di tutto. No, ci avevano anche il coso, il miscelatore. Miscelava da solo, mettevi l'olio da una parte, la benzina dall'altra, te la miscelava da solo. Io lo so, quelli più vecchi stanno facendo tutti quattro tempi anche i motori marini per non fare miscela, capito? Intanto la miscela funzionava, sporcavano bene le candele, devi fare ogni tanto pure nella candela. E vabbè, anche i motori marini stanno facendo tutti quattro tempi per non avere miscelatori e balle varie. Quelli nuovi sono tutti quattro tempi. Che bello. Chiara, chiara. Andrà bene. E Paolo, a ci sì? Buono, buonasera. Nomi. Chi è questo qua? Barra agricola. Quell'uomo che guida il trattore, quello che fa le palle. Ah, io la facciamo questa prova agricola, non ce la fa a parlare. Non ce la fa a parlare. Parlare con un muro. Tu fa se stiamo trovando a fare anche in casa. Quando è in macchina e conviene molto a mettersi sotto casa mia e se non si mette sotto, si nasconde in un punto dove tu non lo vedi, non sarà tornato pazzo ma in zona. Pronto, quando lo trovi, non fai a calcire niente, la fondo schiena, vedrai, non le sanno fare più. Vai di su. Non lo trovi, due calci al fondo schiena, e non le sanno fare più, quando non le sanno fare, lo stesso quando le sanno incontrare una struzza. No, no, sta avanti. Le lotte mica si fanno picchiare, le lotte si fanno diversamente. Se la mette sul tetto con tutte le quattro radiali, ne ha lo scritta. E direttiva solo a parte. Sì, sì. Sai cos'è? Con tutti i fondi per le cose, per funzionare al 100%, devono avere libertà. Risposta 9:35. stanno cadendo i tappeti, che erano la finestra, stanno cadendo giù. Alla finestra, sono andati al mare e ho detto se non li trova giù direttamente, è venuto un colpo di vento, ma poco non ti ricordi tutti i giorni. Ah, a me mi sembra sempre lo stesso. Prova. No, così è più basso. Appa. No, per pa, mi stai prendendo in giro. E poco fa arrivavi 9.35, quasi 9.40. Allora ho sbagliato io, però sei di meno. E adesso sarà 9.20. Se così o meglio. 9.35 sì così. 9.35 così. Mamma. E quello è il passaggio che può fare, non era il primo. Questa è la Gran Prima. Ah va. Ti migliora il signore. Da voi. Insomma fa da 9.20, 9.15, 9.20 a 9.35. Ma cosa stai cambiando le antenne? Questa qua è la Gran Prima. Se è una questione di antenne, alla grande aumenta, oh? Che cazzo c'ha? Allora che ti aumento? Che ti aumento? Che cosa? Comunque, per fa. Va molto bene, va molto bene l'altra, che servi quasi fondo scalo. Sto sentendo anche in gestione, sento anche il sindaco di Proaghe. La Gran Pecora. E questo no, non l'ho messo neanche il radiale. Riceve un bermiglio, e trasmette un bermiglio. Va bene, confermami, guarda, adesso ricomuto, allora. Bene. Sì, dovrebbe essere la Gran Prima che ha provato doppio un attimo, chi mi chiama? Confermo a Pierpa, confermo quello che ho detto. Chi mi chiama? Va? Io sono male. Perché io non lo sento bene a Pierpaolo? Non so. Ma magari la zona che sì. Ah, so. Non so che dirti, però ma prova a vedere se ti sento. Me dovrebbe sentire però, come si spera, se ne vado più forte da lui dovrebbe essere anche lì. Lo senti Alex? Ma adesso sì, in questo punto sì, mi sono sforzato. Tu ti arriva? L'antenna. Ma sai che ti arriva? Un passaggio per fa. Vuole tre. Santiago 1-1-2, radio 5. Non mi hai preso? Sì, ho sentito. Dai, un attimino di fianco, più al fatto. Un attimo, già. Quant'è? Ma esce meglio anche trasmissione, senza ombra di dubbio. Probabilmente lui non è in zona buona. Vado io con la macchina mia, devo potete vedere se si giamba. Non è piazzata per me. Ma esce fuori. È 2.75 hanno di solitamente le Gran Prima sono 2.75. No, per farlo l'ho avuta io, ho avuto la Lem che è la migliore della Gran Prima, quella che c'erano di aree più lunghe, 2.75, e batteva un bel quanto le manco va quasi in batteva. Strano, sta tratta. adesso non ti sia lontano. Stai facendo un po' a tratti. Ah, è una buona antenna la Gran Pesce. Hai cose di tenere la lucida, la falla, ne metti CDC tutto quanto, la pulisci bene, ti esce un buon bo. Con l'anno d'acciaio non te la fai e ti esce lucida, lucida. Non so, ma se poi ti entusiasma, Pierpa, tira poi pure il burro dentro il magazzino. Ci sta, a modulato. Dai, ci stiamo più tardi per prossimo chiudere.